bambina, il cavallo è questo delle belle che vuoi padron mio, da poco voglio che ho fattino, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia sta 140, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia, non mamma, in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, tra questi contadini, cavalieri e cittadini, un contesto baronese, perché sono il principe, ogni domenica, ogni cosa, ogni, ogni, ogni, in Italia, senza gente in Europa, in Germania, 231, e poi in Francia, in Turchia, Yeah.